siamo qua, siamo soli come siamo soli da martedì scorso, senza il fido e compianto Oliva che ci sta ascoltando, godendosi con l'occhio critico le strutture ospedaliere che lo ospitano, in cerca presumibilmente di riflessioni sapide da farci condividere magari martedì prossimo, comunque speriamo presto. Vabbè, siamo qua soli, ma se tutto va bene vi parleremo di proprietà, di preistoria elementare, di didascalie, di caccia vostra e in chiusura una favola per gabbiani.